Salve a tutti amici di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 22 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e la ricetta di oggi è risotto al prosecco con lamponi e menta. Ingredienti per 4 persone: 250 g di riso, 300 ml di prosecco di Francia corta, 20 lamponi, una foglia di menta, uno scalogno grosso, 20 g di formaggio grattato, 1 litro e 2 di brodo vegetale, olio extravergine, sale e pepe quanto basta. Preparazione: spellate e tritate finemente lo scalogno e mettetelo a soffriggere. Quando lo scalogno è appassito, aggiungere il riso e lasciare tostare, mescolando con un mestolo di legno. Quando il riso sarà tostato, sfumate con la metà del prosecco. Quando il vino è evaporato, aggiungete un paio di mestoli di brodo bollente. Aggiungetene altri ogni volta che il brodo sarà evaporato. A pochi minuti dal termine della cottura, aggiungete il vino prosecco restante. Regolate di sale e pepe. Lontano dal fuoco, mantecate la foglia di menta col formaggio. Dopodiché aggiungete i lamponi tagliati a metà. Unite il composto al risotto, mescolando delicatamente. Buon appetito! Il vino consigliato di oggi è lo stesso vino usato nel risotto. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e vi do l'appuntamento alla prossima ricetta con A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola, alla prossima!